1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino, l'Italia si desta. Sono le 7 e 17 minuti e l'alba è già passata, cari debosciati, e dunque dovete, amici miei, debosciati d'Italia, darvi da fare, perché si sta per concludere anche la 60ª settimana decisiva per la riforma elettorale e per l'abolizione delle province. E dunque bisogna darsi una mossa. Vi ricordo che parleremo un po' di politica con quello che succede al Senato, l'immunità, i dissidenti, il casino che sta succedendo al Senato per questa riforma per la quale avete sentito ci sono 35, 36, 37 dissidenti che non la vogliono, un po' nel Partito Democratico, un po' in Forza Italia. E avremo ospite Michele Ainis, che insegna diritto pubblico, diritto costituzionale. E poi avremo ospite una giornalista del Fatto Quotidiano, Antonella Mascali, che ieri il Fatto Quotidiano ha fatto un conto di tutti i consiglieri regionali indagati, sono circa metà in Italia, che potrebbero, secondo il nuovo Senato non elettivo, essere eletti al Senato e avere l'immunità, e dunque c'è questa polemica su questo. Poi parleremo ancora delle spese in Sicilia, avremo ospite il questore dell'Assemblea regionale siciliana, Paolo Ruggirello, questo alle 8.45, abbiamo detto, del super burocrate pagato in Sicilia 1.600 euro al giorno. Vorremmo capire se davvero è così. Intanto andiamo a sfogliare i quotidiani. In questo venerdì 27 giugno, è venerdì e questa è una gran bella notizia. I titoli sono tutti declinati sul vertice europeo. Il Sole 24 Ore apre così: vertice europeo si tratta sulla flessibilità nel patto, mentre per il Corriere della Sera Europa scontro tra due anime. Repubblica, tensione Renzi-Merkel, poi la Germania dice sì alla flessibilità. Per la Stampa, Unione Europea verso l'intesa sui conti, il Secolo XIX, Renzi-Merkel, lite sui conti. L'Unità sì a Juncker, ma patti chiari, questa è la posizione di Matteo Renzi. Per il Messaggero, flessibilità, battaglia nell'Unione Europea. Come vedete, molti quotidiani aprono su questo tema. Poi il Fatto Quotidiano, la rivolta del Senato, i ribelli del PD vogliono incontrare Berlusconi, la situazione sulle riforme, mentre Libero, tasse come cambiano a luglio. A proposito di tassa, il giornale invece apre su una vicenda che ci è stata segnalata anche qui in redazione. Estorsione della RAI, questo è il titolo. Arriva il canone a migliaia e migliaia di piccole e medie imprese, anche imprese, perché equiparata in qualche modo ai locali pubblici, avendo i computer nei quali si può vedere la TV in ufficio, la RAI chiede loro il canone speciale, 407 euro l'anno. Ovviamente queste imprese si ribellano. La Chiesa è accanto alle famiglie in crisi, questo è il titolo di Avvenire in prima pagina. Ma la prima pagina del giorno e anche la prima notizia che voglio affrontare leggendo i giornali mette Anna Maria Franzoni in foto, in bella evidenza. Questa donna è cambiata? Si chiede il Giorno in prima pagina, con ovviamente un punto di domanda, una risposta alla quale in realtà devono dare una domanda alla quale devono dare una risposta i magistrati, e i magistrati con questa perizia hanno dato la risposta, perché Anna Maria Franzoni, scarcerata dopo 6 anni e un mese di detenzione, deve scontarne 16 per l'uccisione del figlio Samuele. È il delitto di Cogne, ve lo ricorderete certamente tutti. La Franzoni ritorna a casa, che gioia, non me l'aspettavo. Questa è la sua reazione, e cioè prosegue la detenzione ma ai domiciliari. andrà ed è già a Ripoli Santa Cristina in provincia di Bologna. Per lei il divieto comunque di tornare a Cogne. Ovviamente quando succedono queste notizie c'è la polemica sui giornali. Oggi, ricordavo prima alle 6:30, appena sono entrato, alle 5:30 al Sole 24 Ore, l'usciere del Sole 24 Ore mi ha chiesto un parere. Ma secondo lei è giusto che la Franzoni torni a casa? Gli ho detto non lo so, guardi, complice l'ora molto presta, non avevo l'idea compiuta, non avevo un'idea precisa se non che mi chiamassi Alessandro Milan, non molto di più. Comunque il concetto è questo, la Franzoni torna a casa, titola anche il giornale. C'è un commento per esempio di Vittorio Feltri. Vittorio Feltri è sempre stato e si conferma innocentista. E tanto che Vittorio Feltri fa un racconto di quello che fu l'inchiesta che divise tutti, lo sappiamo, il plastico di Bruno Vespa, ve lo ricordate, della casa di Cogne, e si chiede Vittorio Feltri a pagina 15 del giornale: chi può affermare che sia stata la mamma ad ammazzarlo? Non esiste l'arma del delitto, non esiste un movente che stia in piedi, le perizie scientifiche effettuate nella tragica camera da letto non hanno fornito risultati concreti e tali da inchiodare la donna. Rimane il quesito principale: se non è stata lei, chi può essere stato? Non nego che l'interrogativo sia inquietante, ma non è sufficiente, a mio giudizio, per condannare una persona a 16 anni di prigione. Spero di sbagliare, però il dubbio non è mai stato sciolto e dice Vittorio Feltri: non escludo che l'apparato giudiziario, consapevole di aver incastrato Anna Maria senza le famose prove cui accennavo sopra, abbia voluto e abbia avuto una resipiscenza e aperto i cancelli del penitenziario a titolo di parziale riparazione di uno sbaglio grossolano. Comunque, conclude Feltri, non voglio dire con questo che Anna Maria sia innocente, non lo so, ma se anche fosse colpevole è assurdo sia stata condannata sulla scorta di una elucubrazione e non di prove certe. Il fatto che la signora torni a vivere in famiglia va pertanto salutato con favore. Così Feltri, la realtà insomma che c'è una sentenza definitiva, tanto che Il Giorno va a intervistare colei che la accusò. Maria del Savio Bonaudo, forse ve la ricordate, è stata procuratore ad Aosta all'epoca dell'omicidio di Cogne, era questa signora di mezza età con gli occhiali e i capelli a caschetto biondi, ora fa l'avvocato nello studio legale dei figli. E dice: è un caso sui generis, l'imputata è stata carnefice e vittima, avendo agito contro il suo bene più prezioso. Non mi scandalizza il fatto che sia a casa, tutta la normativa si sta orientando verso gli sconti di pena. Certo, però torna con un paio di stilettate proprio l'ex procuratore capo di Aosta. Sentite quando dice in questa intervista di Viviana Ponchia: parto dalla compassione umana per una vera tragedia nei confronti della Franzoni, ma mi irritava e continua a irritarmi il suo ossessivo piagnucolare. E sul marito che devo dire? Bisognerebbe entrare nella sua testa, nel suo cuore, ma lo si può capire, deve essersi dato questo obiettivo, salviamo il salvabile. Ma ricordo bene cosa disse subito dopo l'omicidio: non dovevo lasciarla sola. La signora Franzoni aveva dei problemi e lui lo sapeva. La montagna è bella nei fine settimana, ma può diventare un inferno per una giovane donna lasciata sola con due bambini piccoli. E poi ancora la seconda stilettata è questa: auguro a Anna Maria Franzoni di stare in pace, è stata inseguita, perseguitata addirittura, e tutta questa attenzione ha finito per darle alla testa. Ecco qui cosa dice l'ex procuratore: questa è l'ultima occasione, spero breve, per fare l'attrice. Le auguro di riuscire a rivendicare il diritto all'oblio, di essere dimenticata. Spero che inizi per lei la stagione del ripiegamento e della solitudine in mezzo ai suoi fantasmi. Davvero il caso rischia in qualche modo di essere riaperto, se non altro per queste letture molto molto polemiche anche a distanza di anni. Comunque Franzoni torna a casa, non ci posso credere, così titola anche il Corriere, mentre questa frase le viene attribuita da Repubblica, attribuita perché in realtà lei pubblicamente non ha detto niente. Franzoni a casa, sono stata perseguitata, questo da Repubblica, è il titolo a pagina 19, 6 anni dopo l'assassinio torna a casa. C'è anche una foto dell'incontro dei parenti che esultano all'imbocco dell'autostrada dopo l'uscita dal carcere. Anna Maria Franzoni li incontra e da lì il viaggio verso casa. Vicenda ben diversa, ma è l'apertura del Giornale. È una vicenda che sta facendo arrabbiare moltissime imprese, per la verità se ne occupa anche il Secolo XIX, con il titolo Rai stangata partite IVA. Gabriele Villa invece sul Giornale, il titolo è questo: canone anche sui computer, rivolta contro l'estorsione Rai. Cosa sta succedendo? Molte imprese segnalano che dalla Rai stanno arrivando bollettini con richieste di pagare un canone speciale di 407 euro perché i PC, i computer all'interno delle aziende potrebbero essere utilizzate come TV, e sappiamo che il canone è una tassa sul possesso di TV o di tutti gli strumenti che possono far vedere la TV. E allora un imprenditore lancia la sfida: non lo pagherò mai, mi vengano pure a prendere. È furioso Giorgio Colombo, 59 anni, firma d'eccellenza per tradizione di famiglia dei cantieri nautici con sede a Grandola e Uniti. Sdegno che tracima il suo mentre sventola il bollettino che gli ha invitato la Rai. 407,35 euro di canone speciale perché con il PC che ha in azienda potrebbe guardare la TV. Ma vi pare possibile? Siamo qui in cantiere tutti i santi giorni a spaccarci la schiena da una vita e la Rai ci viene a chiedere questi denari per qualcosa che neanche sappiamo se e come si possa riuscire a combinare. L'unico computer ci serve per i fornitori, tenerci al passo con l'evoluzione della cantieristica, per le mille procedure burocratiche imposte dallo Stato, per la fiscalità senza pari nel mondo. E ora arriva la Rai ad appiopparci questa nuova tassa, camuffandola come un pagamento dovuto per godere della TV. Come lui parlano tantissimi imprenditori, anche il Secolo XIX appunto racconta stangata partite IVA. Elisabetta Pagani a pagina 13 racconta di come potrebbero arrivare a migliaia e migliaia, potenzialmente 70.000 a Genova e provincia. Tante sono le imprese iscritte al registro della Camera di Commercio. Le richieste, i bollettini di canone speciali per l'anno 2014, non quello ordinario per le abitazioni ma quello per gli uffici, è dovuto da chi detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive fuori dall'ambito familiare nell'esercizio di un'attività commerciale. Tradotto, se al ristorante ma anche in ufficio, in studio, si hanno una TV o un computer su cui si guarda la TV, bisogna pagare. È stato spedito a tutte le partite IVA, così fa sapere qualcuno a Genova, decine di migliaia di lettere e la rivolta dei contribuenti. Vabbè, andiamo un attimo in pubblicità e poi riprendiamo dalle notizie che mettono i brividi, la discussione nell'Unione Europea e poi le notizie anche politiche italiane. Arrivato l'Arrotino. Alessandro Milan, l'Arrotino dell'informazione. Arrota coltelli, forbici, forbicine, forbici da seta. Mi piace sempre tantissimo questa dell'Arrotino. L'Arrotino. Allora, la notizia con cui aprono tutti i giornali è la questione del Consiglio europeo. Per me, ma io sono sempre fatto male, forse sono fatto male, una noia mortale leggere questi articoli, dibattiti abbastanza inconcludenti, se poi raggiungono qualcosa su quello che succede, il dialogo sui dibattiti sull'austerity sì, l'austerity no, però ci sono le nomine, la nomina a presidente della Commissione europea pare che la possa spuntare Jean-Claude Juncker, c'è anche la nomina all'alto rappresentante per la politica europea, quindi insomma una sorta di ministro degli esteri dell'Europa, e qui siamo molto più interessati? Siete più interessati? Comunque, insomma, c'è l'idea che possa arrivare una nomina per un italiano o un'italiana, visto che in pole position c'è il ministro degli esteri Federica Mogherini. Comunque, come la rappresentano i giornali, più di 1000 articoli può valere la vignetta di Giannelli in prima pagina del Corriere della Sera, per far capire come l'Unione Europea sono molto divisi i leader dei vari stati. C'è una vignetta che ritrae Angela Merkel e tutti gli altri, Matteo Renzi, Hollande, insomma tutti seduti al tavolo, è il momento del caffè, come lo volete, ristretto, normale, senza zucchero, macchiato, corretto, decaffeinato, a me un tè, basso, lungo. Ecco, questa è l'Unione Europea. L'Europa si divide sulle regole di bilancio, titola così pagina 2 il Corriere della Sera. Nella prima giornata del Consiglio Europeo i 28 capi di Stato e Governo dell'Unione non sono riusciti a finalizzare il non facile accordo sulle linee guida delle politiche economiche di bilancio per il prossimo quinquennio. Se ne riparla oggi a Bruxelles, dove si negoziano anche le euronomine. Si è parlato di uno scontro, o meglio di un faccia a faccia a cena, con una battuta di Matteo Renzi nei confronti di Angela Merkel, tanto che la stampa titola pagina 3 e Renzi sfida la Merkel, non faremo come voi. Qual è la battuta, racconta Fabio Martini? L'ultima volta che l'Italia guidò il semestre di presidenza europea era il 2003 e allora due paesi chiesero di sforare il 3% e furono autorizzati, la Germania e la Francia. Così Matteo Renzi a tavola ha ricordato a Angela Merkel e François Hollande, che erano lì con la forchetta in mano e lo guardano, ascoltano con un filo d'ansia, e racconta la stampa, non è difficile immaginare che pensino dove vuole arrivare. E il presidente del Consiglio Renzi prosegue così: si può discutere sul tipo di riforme che abbiano fatto, e certo la straordinaria stagione di riforme inaugurata in Germania le ha consentito di affrontare la crisi, ma noi oggi, a differenza della Germania, noi non chiederemo di violare la regola del 3%, ma chiediamo una interpretazione più flessibile dei trattati. Insomma, Renzi dice alla Germania: non faremo come voi che nel 2003 avete chiesto di violare il 3%. Noi staremo invece nei parametri, ma leggiamo i trattati in maniera un po' più flessibile. L'altro tema, e su questo guardate, non c'è accordo, ecco, flessibilità, austerità, flessibilità dei trattati, forse oggi ci sarà al secondo giorno, dopo una notte in cui gli Sherpa, no, si sono messi d'accordo, qualche novità. L'altra novità è la questione delle euronomine. Allora, ce la farà Federica Mogherini a essere nominata presidente del alto commissario per la politica europea comune, una sorta di ministro degli esteri dell'Unione Europea? Attenzione, perché spuntano altri nomi italiani. Massimo D'Alema, così titola Repubblica, nella battaglia per la commissione insieme a Mogherini spunta il nome di D'Alema. Mentre scrive Repubblica, l'altro nome circolato era l'ipotesi di Enrico Letta per la presidenza del Consiglio europeo, ma sembra già tramontata la sua ipotesi, questa ipotesi. Mentre il Corriere della Sera è l'ipotesi Letta ora spariglia i giochi sulla flessibilità, tensione con Berlino, e cioè l'ipotesi della candidatura di Enrico Letta, rilanciata da Londra e da Parigi più che da Roma, per il posto di presidente del Consiglio europeo, complica e confonde le dinamiche. Renzi punta a Mr. Pesk, e cioè appunto il commissario alla politica estera dell'Unione europea. Federica Mogherini è ufficialmente l'unico candidato italiano. Ma cosa succederebbe se altre cancellerie dovessero sponsorizzare in modo concreto l'ex premier italiano Letta? Insomma, tutte questioni così di nomine, questioni di poltrone, per carità, sono importanti. In ogni caso, altre poltrone sono quelle in cui si litiga al Senato. Tutti raccontano che ormai c'è la minaccia dei 35 dissidenti sul Senato, 35 molti di Forza Italia, 18 però invece sono nella maggioranza, no, sono 4 di Forza Italia, e 18 nella maggioranza. E Minzolini guida, secondo il Corriere della Sera, questa fronda, diciamo, contro la riforma del Senato così com'è, e vuole trascinarsi dietro almeno 30 colleghi azzurri di Forza Italia. Insomma, la questione dei conti, questo è il titolo del Corriere della Sera, la minaccia dei 35 dissidenti sul Senato, ma anche su Repubblica: sono diventati già 37, rivolta in Forza Italia, in 37 per il Senato elettivo, mentre nel PD 19 dissidenti. Quindi, secondo Repubblica, i conti vanno già aggiornati così: 37 in Forza Italia e 19. Fate i conti, fa 56, e spero di aver fatto la somma giusta alle 7:41 minuti. Dissidenti al Senato, cioè non vogliono la riforma, vogliono il Senato elettivo. A proposito di questo, c'è ancora la polemica sull'immunità con Carlo Tecce del Fatto Quotidiano, che racconta come a pagina 3 il governo sapesse dell'immunità al Senato. Ecco la prova che il governo sapeva. Vengono pubblicati i testi a confronto degli emendamenti che sono stati modificati. In pratica, quello che ci ha detto il relatore della Lega, Roberto Calderoli, due giorni fa, e cioè che gli è arrivato il testo dell'emendamento del governo nel quale si sapeva. E qui viene pubblicato tutto su carta, no? Le parti riscritte da Palazzo Chigi di colore verde, pubblicate sul Fatto Quotidiano, il colore verde all'emendamento. Se il governo non mette mano al testo rosso, vuol dire che è d'accordo con esso, ed ecco che viene messo il testo dell'immunità, l'emendamento in rosso, e non c'è alcuna modifica del governo. Non essendoci alcuna modifica, il provvedimento è stato licenziato così, cioè è stato approvato così, cioè l'immunità dei senatori, e il che vuol dire che il governo era consenziente. Capito, Mauro Beazza? Ma ho capito poco. Buongiorno Alessandro, puoi farmi poco rivedere questa cosa del rosso e del verde? Vabbè, mi hai distrutta, ho capito. No, ma è un limite mio, figurati, non volevo mancare. Quello che conta è il governo sapeva, questo almeno secondo il Fatto Quotidiano. Il governo sapeva, va bene, allora questo è il senso, va bene, ti ringrazio molto di avermelo semplificato. Se il governo saprà anche che ci sono 10.000 partecipate dei comuni, non 8.000, abbiamo aggiornato le stime, lo vedi oggi sul Sole 24 Ore, perché appunto proprio per segnalazione anche del commissario alla spending review, Cottarelli, sta tornando questo. Questa figura ricordo. Molto importante, perché qui bisogna tagliare, bisogna sfoltire. E ci sono perdite, a parte le perdite oltre il miliardo complessivamente, poi ci sono società partecipate che fanno un po' di tutto, non solo tradizionali acqua, luce, gas, insomma, che uno si aspetta, rifiuti, quelle cose lì, ma anche molte altre attività. Ma leggi Gianni Trovati oggi sul Sole 24 Ore, che vedi che ti spiega tutto. E poi hai visto, ci sono 144.000 eletti in politica. Ah, questo sì, l'ho letto con attenzione, Antonello. Siamo rimasti a piedi, però non... Per la precisione sono 144.591 politici eletti, poi in alcuni casi nominati, comunque eletti in Italia, ecco. Ecco, di cui immuni non lo sappiamo, va bene. Non lo sappiamo. So che devi parlarne, perché ho visto anche la tua bella foto in una pagina del Sole 24 Ore di oggi. Quindi so che tornerai sul tema. Ma invece volevo dirti, volevo parlarti del principio contabile numero 15. Ora tu rimarrai forse un po' smarrito. Sei rimasto un po' smarrito. Sapevo i primi 14, ma... Non faraccia lo spiritoso, guardi che c'è gente che si lambicca il cervello per poter stare al passo con i principi contabili. No, ci sono tre nuovi principi contabili rilasciati dall'Organismo Italiano di Contabilità, ne parliamo, indovina un po' in che pagine? Norme. Norme. Certamente, ovvio. Ne parliamo nelle pagine di norme e tributi. La cosa importante è che soprattutto parliamo dei crediti ceduti e di come trattarli in bilancio. Ora la questione, lo so caro Alessandro, che non ti scalda come le cose rosse e verdi che trovi sull'immunità, ma ti assicuro che è molto molto delicata, e quindi segnaliamo questa cosa ai lettori. Vorrei chiudere, è venerdì alla fine, vorrei chiudere con una notizia positiva. ci aspettiamo un miglioramento di, nei flussi turistici per le vacanze. Ne parliamo questa volta non in norme e tributi, leggero miglioramento soprattutto da parte di noi italiani, quindi forse abbiamo deciso di farci ugualmente le vacanze, tanto voglio dire i tuoi 2 euro è inutile che li tieni lì, insomma vai, comprati un ombrellone, affittati un ombrellone, vedi un po', se lo trovi a quella cifra poi dovresti farlo gentilmente sapere, esatto. Perché sarebbe elegante da parte tua e anche molto generoso. Bene, è il mio momento, mi è pare il tuo di gran capire. Momento, caro Mauro. Allora, buona domenica a tutti, ma soprattutto traffico. Alessandro Milan, con la sua sexy voce, ti sveglio ogni mattina. Cara ascoltatrice, grazie, grazie. Che devo dire? Sono emozionato e continuo a leggere i giornali, occupandomi tutti i giornali, e l'apertura di Avvenire è questa: la Chiesa accanto alle famiglie in crisi, il documento del Sinodo dei Vescovi, tutti i giornali dedicano una pagina, se non di più, a questa vicenda, soprattutto con che taglio: i fedeli non capiscono i nostri no a contraccettivi e divorziati. Questo è il virgolettato. Sono anche risposte al questionario della Chiesa. Gian Guido Vecchi mette questa frase come titolo a pagina 5 del Corriere della Sera. La frase la dice più importante l'arcivescovo Bruno Forte, segretario speciale del Sinodo, quando parla di una Chiesa accogliente, in uscita, e di un documento che esprime rigore e onestà nel non chiudere gli occhi di fronte ad alcun problema, per quanto inquietante o scomodo possa sembrare. Per esempio, la questione delle coppie di fatto, delle famiglie allargate, dei divorziati risposati, tutti i temi sui quali la Chiesa si interroga e sulla quale si raccomanda attenzione e misericordia nello stile di Francesco. Questa frase, per esempio: la Chiesa non deve assumere l'atteggiamento di giudice che condanna, ma quello di una madre che sempre accoglie i suoi figli e cura le loro ferite in vista della guarigione. Si arriva fino ad affermare, ad esempio, che la maggior parte dei fedeli è contraria a leggi che permettano adozioni ai gay, ma se una coppia omosessuale chiede il battesimo del bambino, il piccolo deve essere accolto con la stessa cura, tenerezza e sollecitudine che ricevono gli altri bambini. O a spiegare che le ragazze madri vanno ammirate per l'amore e il coraggio con cui hanno accolto la vita concepita nel loro grembo e crescono ed educano i figli. Meritano, insomma, di trovare un sostegno speciale nella società e la sollecitudine di una famiglia nella Chiesa. I vescovi poi si riuniranno a ottobre per il sinodo sulla famiglia. Il testo servirà come base di discussione per tutte queste tematiche sui sacramenti ai separati e divorziati, la contraccezione, la vita della coppia, l'accoglienza dei figli dei gay e delle madri single, le unioni civili per gli omosessuali, insomma tutte tematiche sulle quali la Chiesa si interrogherà a settembre. Il titolo del Secolo XIX su questo tema è Sinodo dei Vescovi, i figli dei gay vanno battezzati. Come al solito poi in documenti molto complessi i giornali prendono uno spunto, quello che ritengono più interessante, poi da sviluppare. Veniamo alla cronaca. Il Corriere della Sera mette a pagina 10 un'intervista riproposta, per la verità, proposta in prima istanza dal quotidiano Il Garantista, che riguarda la figura di Diego Marmo. Ce ne siamo già occupati qualche giorno fa. Diego Marmo fu il PM che si occupò del caso Tortora e che ora in pensione è stato nominato assessore alla legalità di Pompei. Ebbene, Diego Marmo sul Garantista, 30 anni dopo, dice: sbagliai, mi scuso. Adesso, dopo 30 anni, è arrivato il momento. Mi son portato dentro questo tormento troppo a lungo. Chiedo scusa alla famiglia di Enzo Tortora per quello che ho fatto. 30 anni fa il PM pronunciò l'arringa contro Tortora nel processo in cui fu condannato per camorra, una decisione poi ribaltata l'anno successivo in appello, quando il conduttore televisivo era agli arresti da oltre 3 anni. Dice ora Diego Marmo: il rammarico c'era da tempo. Ho richiesto la condanna di un uomo dichiarato innocente con sentenza passata in giudicato. Mi lasciai prendere dal mio temperamento, ero in buona fede, ma questo non vuol dire che usai sempre termini appropriati. Mi feci prendere dalla foga. precisa di non essere stato l'unico protagonista del caso, ci fu un'istruttoria, un rinvio a giudizio, un tribunale che accolse la sua richiesta di condanna, ammette lo sbaglio e spiega così il silenzio di questi anni. Ho creduto che ogni mia parola non sarebbe servita a niente, che tutto mi si sarebbe ritorto contro. Ero Diego Marmo, l'assassino morale di Tortora, e dovevo tacere. Ma è proprio perché Tortora si comportò da uomo vero e rinunciò all'immunità che Marmo censura l'uso strumentale del caso. Mi fanno arrabbiare certi quacquaraquà che invocano il suo nome per nascondere magagne. Insomma, l'intervista stralci dell'intervista vengono riproposti oggi dal Corriere della Sera da Renato Benedetto a pagina 10. Sempre per quel che riguarda la cronaca, un altro sfogo invece è quello di Rosy Mauro. Ve lo ricordate? Ieri ne abbiamo parlato con Umberto Bossi e famiglia, per i quali ha chiesto l'invio a giudizio. Mentre Rosy Mauro, passionaria della Lega, come l'ha definita, per lei invece è stata scagionata da tutto, di non aver preso soldi pubblici. E ricordate la gogna mediatica che ci fu all'epoca, lo sfogo di Rosy Mauro sul giornale, scagionata dopo 2 anni, la gogna non si cancella. L'ex senatrice leghista non augura al mio peggior nemico ciò che ho passato e ringrazio i PM per il loro lavoro immane. Luca Fazzo racconta di quella che era definita la strega nera, donna e meridionale dentro una lega di maschi. Non auguro davvero al mio peggior nemico ciò che ho passato in questi anni. Oggi sono felice, ma 2 anni e 2 mesi di gogna non si cancellano. Non si cancellano le incursioni, le falsità sulla mia vita privata. Ringrazio i PM che hanno fatto un lavoro immane e questo lavoro li ha portati a convincersi della mia innocenza. Un'innocenza però calpestata senza ritegno su giornali, in televisione, su internet. Oggi Rosy Mauro dice: sono felice, con quel mondo non ho più niente a che fare. E siamo al momento conclusivo, dai, è il momento della carta costa. Ripeto, è arrivata la coppa. Oggi metterò una foto su internet, magari un po' misteriosa, e la consegneremo settimana prossima al vincitore della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, il vincitore dell'anno. E se guardate su internet, su Twitter, c'è già una traccia, un accenno di chi sta primeggiando in classifica e potrebbe vincerla questa coppa. Intanto oggi il premio di giornata va a Giuseppe Guastella, che va a New York per raccontare come arriverà una spiaggia a Manhattan. C'è un miliardario, tale Blaine Ross, che vuole fare una chiatta con tanta sabbia sull'Hudson tra i grattacieli per fare una spiaggia a New York. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Una pagina del Corriere della Sera. Dai, andiamo al giornale radio.